Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Se ieri, parlando della vertigine della fuga attraverso l'ipermercato, abbiamo fatto baluginare una delle più fantastiche e possibili vie di fuga dal grigiore metropolitano, dalla tristezza quotidiana, oggi faremo un'operazione inversa. Se ieri era la massima apertura, oggi parleremo della massima occlusione mentale, della massima asfissia spirituale, di ciò che più può attrarre una persona verso il baratro della dissoluzione. Di solito avviene questa operazione, questa fuga verso il basso, questo precipitare in un luogo molto vicino alla propria abitazione, anzi molte volte anche nella propria abitazione o a un piano superiore o a un piano inferiore o comunque nel palazzo in cui si abita e si divide con altre persone. Sì, perché questa mattina stiamo parlando del bimestrale rituale terrificante della riunione di condominio. Sera. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Sì. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta. Già. Sì. Allora, dichiaro aperta la seduta! Di notte! Insomma, lei non chiude mai l'ascensore! Lei è un moroso! Lei è un cornuto! Lei deve ancora tirare! Eccole! Uno, due, tre! Oh! Ehi! Vada giù a vedere la guardiola! Non è il tamaio, lei è l'amministratore! Vada giù a controllare! Vada! Vada! Naturalmente per Fantozzi diventa il paradosso, diventa una tranquilla, almeno nelle apparenze, riunione tra vicini nel salottino di uno di loro. A turno si svolge la riunione condominio a casa di un condomino, ma in altri condomini c'è un'apposita saletta, altri condomini ancora affittano una sala parrocchiale, affittano la retrobottega di un bar, affittano un garage. Insomma, sono tante le location in cui avviene questa sorta di auto da fé, questa rivelazione totale di quelli che sono gli istinti peggiori degli esseri umani quando sono costretti a vivere in promiscuità. Nella fattispecie di Fantozzi, una volta entrati nel salottino, si scatenano quando il presidente di turno dà l'inizio alla riunione e si massacrano a pugni, a calci, si buttano alle finestre, si prendono a sciabolate, si prendono a pugni. Al termine della riunione si salutano tutti sorridenti, ritornati persone civili e ritorna ognuno a casa propria. 800240024. Cos'è per voi la riunione di condominio? Mi rendo conto che questa trasmissione, dal profondo e radicale istinto umarellico, perché l'umarell, l'anziano metropolitano, è naturalmente il personaggio chiave di ogni riunione di condominio. Non so perché le persone giovani non vanno mai alle riunioni di condominio. Se ci vanno, vengono sbeffeggiate. Qualcuno al di sotto dei 40 anni alle riunioni di condominio è visto come un novellino, come una recluta in un esercito di veterani. Si alza il ditino e prova, non so, a fare una normalissima richiesta, come, non so, mettiamo dei fiori nel terrazzo, apriamo il terrazzo per poterci andare a prendere il sole invece che stenderci i panni, oppure facciamo in modo che non ci siano quei terribili cartelli scritti a mano nell'androne: è vietato mettere le biciclette dentro. Perché non si possono mettere le biciclette dentro? Non so, diamo un'aria più giocosa e più divertente al luogo in cui abitiamo. Immediatamente ti guardano come se tu avessi bestemmiato, se avessi profanato la sacralità di quella meravigliosa proclamazione del diritto al pensiero anziano di prevalere su ogni altro pensiero, e ti dicono: vabbè, passiamo avanti. Ti guardano con un'aria, dice, ripassa fra 20 anni, quando anche tu sarai umarell, potrai capire che in realtà i veri problemi sono questi. Quali sono? Fare in modo che non mettano i volantini pubblicitari nelle cassette delle poste, blindare, chiudere, sbarrare, cercare di impedire dire, fare in modo che non accada, fare in modo che non avvenga. Poi se uno dice, ma potremmo fare un'antenna centralizzata in modo da non avere 200 antenne, fili cadono, ti guardano come l'antenna centralizzata. E io voglio avere i miei canali, oppure io non voglio il satellite, io non guardo la televisione, improvvisamente nessuno guarda più la televisione. Altro motivo terrificante nelle riunioni condominio di grande litigio e di grande accanimento è il livello del riscaldamento. Ora, nei palazzi in cui c'è una prevalenza omarellica, naturalmente i riscaldamenti devono essere accesi il 1 settembre ed essere spenti il 30 giugno e devono stare a un livello di calorie massime, in cui nelle case si suda e bisogna aprire tutte le finestre. Negli appartamenti in cui ci sono soltanto uffici, quindi non gliene frega niente a nessuno, nelle case si congela. È difficile trovare delle vie di mezzo. Oggi hanno proposto dei particolari manometri personalizzati che si attaccano ad ogni elemento del termosifone di casa, con una sorta di capo che passa e controlla il tuo consumo relativo per ogni elemento. Beh, questi sono tutti fantastici, naturalmente, motivi di litigio nelle riunioni di condominio. Io mi aspetto da voi qualche delucidazione, qualche testimonianza di questa vostra discesa negli inferi, o perlomeno, se io mi sbaglio, se la mia è una versione di colui che si trova sospeso fra una giovinezza sempre più lontana e un'età omarellica che non accetta di dover finalmente varcare, beh, ditemi qual è il vostro punto di vista. 800240024. Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore. Al di là della satira, in effetti vengono lambiti da Benigni nel film Il Mostro alcuni aspetti che fanno parte dell'ordine del giorno consueto delle riunioni di condominio. Quel tal condomino che pare che rubi le lampadine della scala condominiale, o quell'altro condomino che sporca le scale e non pulisce, oppure quell'altro condomino che fa i lavori in casa e quindi gli operai lasciano sempre tracce di calcina nell'ascensore. Tutte cose vere, legittime, perché diventano ragioni esistenziali, diventano motivi di battaglie, di guerre fratricide che possono durare addirittura anni. Abbiamo già una prima dolorosa testimonianza. Ernesto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei la sa lunga sulle riunioni di condominio? Abbastanza, sono amministratore di condominio da un po'. Dove amministra? In che città? Io sono in provincia di Caserta. In provincia di Caserta. Quindi lei ne ha viste di cotte di crude. L'amministratore lo sa che è la persona più maledetta all'interno delle riunioni di condominio, che tutti sospettano che lei abbia delle pastette con alcuni condomini, quindi ci sono delle faide, delle suddivisioni, delle divisioni all'interno del condominio pro e contro la sua figura. È assolutamente così, è la pura verità. La verità è questa. Dunque, io praticamente durante le riunioni di condominio sono stato anche sistematicamente minacciato di morte. Minacciato di morte? Beh, sì, ecco, non una volta sola. Essendo un'area, adesso non voglio discriminare, ma visto che Saviano in questo momento è il mentore di tutte le vicende che accadono alle sue parti, è in zona di Sandokan, quindi una minaccia di morte anche in una riunione di condominio non è che faccia molto piacere. Non fa molto piacere, però fortunatamente poi all'inizio ero un po' spaventato, poi mi sono reso conto che proveniva da una persona che non era così pericolosa come sembrava, anche se ha conservato questo tono minaccioso e questo atteggiamento. E qual era il motivo per cui lei meritava la morte, secondo allora, questo suo? Allora, io merito la morte perché non volevo fargli ritinteggiare la scala, la tromba delle scale, senza fare prima una riunione. Oppure, a lui voleva autonomamente tinteggiare le scale? Esatto, lui autonomamente era deciso che il condominio doveva cambiare volto con il suo arrivo e che quindi dovesse tinteggiare le scale, tinteggiare le ringhiere, i garage, i cancelli, tutto quello che c'è da fare doveva farlo lui e in autonomia. Se lei dice, in effetti lei ha individuato, cominciamo a fare il bestiario delle riunioni di condominio, è il condomino appena arrivato, quello che appena arriva vuole rivoluzionare tutto, diceva qua è tutto vecchio, ha appena comprato la casa, ha acceso il mutuo o peggio ancora l'ha ereditata da qualche vecchia zia, quindi non l'ha pagata nulla, quindi arriva lì e vuole investire su questo bene favoloso e comincia a tartassare gli altri con le sue idee innovative, forse anche giuste, ma senza nemmeno capire qual è il clima del condominio. È vero, lei mi legge nel pensiero, perché la beh, casa ho qualche esperienza, sa. La casa non era neanche sua, quindi non è neanche sua, quindi così si è impossessato di questa cosa e voleva impossessarsi dell'intero condominio. Il problema è che appunto si creano quelle faide e ci si sente soli perché da nessuno arriva l'appoggio, un po' per paura, un po' perché se vuole facciamo un minuto di silenzio in solidarietà agli amministratori di condominio, ma la radio non si può. Guardi, non credo che ce ne sia bisogno, abbiamo le spalle abbastanza larghe per reggere queste cose. Senta, invece ci sono le persone che le chiedono favori, poi l'amministratore è una sorta di elemento anche di una specie di giustizia sommaria, un primo grado di giustizia all'interno del condominio, non so, lo sgocciolamento di un lavandino nell'appartamento di sotto, prima ancora di ricorrere diciamo alle armi di distruzione totale, uno prova a chiamare l'amministratore di condominio che cerca di fare da paciere. Le è mai capitato? Io chiedo... Cerco sempre di rimandarli al dialogo fra condomini, nel senso che, guarda, se lo dici a me così come l'hai detto a me, puoi dirlo tranquillamente a lui, non succederà nulla. Sì, ma sai, io ho provato a dirglielo, ma in realtà non mi ascolta, continua a fare quello che gli pare. Questo anche sul gocciolo. A quel punto poi è chiaro che debba intervenire e cercare almeno di fare da tacere, non preferire nessuno, ma cercare almeno di fare da tacere e risolvere la situazione, che poi alla fine è la cosa più importante. Senta, un'altra figura tipica delle riunioni condominio è il pazzo di condominio, è quello che naturalmente è sempre contro tutti, è quello che vuole denunciare tutti, è quello che ha dei problemi con tutti, è quello che rappresenta una sorta di elemento anarchico, di scheggia impazzita, che tutti detestano, che però, devo dire, movimenta notevolmente le riunioni. Sì, è vero. C'è un tizio da noi che usa di solito la mazza da baseball. La mazza da baseball, così per cercare di convincere gli altri. Cioè viene con la mazza da baseball alla riunione di condominio? Sì, la appoggia dietro a un anfratto, insomma, la tiene nascosta per tirarla fuori nel momento in cui gli può servire. Per lei sta scherzando, sembra di vedere il film di Fantozzi. Assolutamente no, ma guardi, viene con la mazza da baseball. Fantozzi mi fa un baffo, guardi, glielo assicuro. Io sono un cultore di Fantozzi, ma in questo caso veramente mi fa un baffo. Sì, viene con la mazza da baseball, alle volte manda avanti la moglie alla scoperta e si nasconde per vedere se effettivamente la moglie sta ottenendo i risultati che vuole. Se non riesce, interviene lui in prima persona e comincia a tirar fuori questa mazza, a minacciare, a fare delle cose, non le dico. Vabbè, ma allora c'è libertà di porto d'armi nelle regioni condominio, uno potrebbe portarsi quello che vuole. Sì, è un'arma in proprio, in effetti. Beh, io mi porto la motosega la prossima volta, voglio vedere. Sì. Allora, sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Anche lei ne sa di riunioni di condominio? Sì, purtroppo sì, però... Da quale città? Quale città d'Italia innanzitutto? Napoli. Che poi questa è una cosa importante in quanto è molto vicino al mio intervento, perché Napoli è una città piena di automobili, si ha un 3 auto per persona, più o meno per famiglia. E molto spesso all'interno dei condomini c'è la guerra, che non è stata ancora menzionata, dei posti auto, chi lo vuole al coperto, chi lo vuole allo scoperto, chi mette il motorino al posto dell'auto e non va bene. Si sentono le cose più assurde. Beh, già è un condominio privilegiato che ha dei parcheggi a disposizione degli ospiti, non sempre accade. Questo è vero, questo infatti io parlo per esperienza personale, ma è molto ricorrente. Oggi ho cambiato casa la terza volta e per la terza volta all'inizio della prima riunione di condominio all'ordine del giorno numero uno è il posto auto, e poi non ho capito perché non si può mai mantenere un equilibrio già esistente. Ma ecco quello che non capisco, ma se ognuno ha assegnato un posto auto, qual è il motivo della disputa? Ognuno c'ha il suo, finita. E infatti è proprio quella la questione, secondo me è il motivo per creare una nuova disputa, perché sembra che la gente all'interno dei condomini deve poi mollare tutti i demoni che ha lasciato durante la giornata. Ecco, lei ha nella sua esperienza elementi particolari, come il signore con la mazza da baseball che ha detto il suo collega? No, per fortuna no, anche perché a Napoli questo potrebbe diventare particolarmente pericoloso, perché poi la gente sotto questo punto di vista potrebbe essere più fattiva. Quindi no? C'è un'escalation di violenza, questo potrebbe accadere. Ecco, però diciamo no, per fortuna no, si chiude sempre in bonis, anche se molto spesso paradossalmente si va a finire su questioni di tipo meramente legale, quindi che sono anche più antipatiche di una. Sì, poi quando entrano le denunce condominiali, ma comunque non hanno mai un esito, non so perché, finisce sempre tutto, va tutto in cavalleria, si perde nei tempi. Sentiamo Danilo. Danilo, cosa succede nel suo condominio? Sì, buongiorno. No, raccontavo anche. No, mi piace che vi viene da ridere, è divertente. Sì, io ce la rivedo domani sera. Per quanto tragica sia. Quale città? Lei da quale città? Io adesso telefono da Milano, sono di Cernusco sul Naviglio. Ah, beh, vabbè, siamo passati provincia, al nord. Sì. Sì. Per quanto tragica, effettivamente sono anche molto comiche alla Fantozzi. Niente, io ho un episodio dei tanti, insomma, che uno dei condomini, quando ancora non era condominio, quando non c'era ancora l'amministratore, che una parte dei condomini lo volevano, un'altra parte si opponeva. Per protesta piantammo un albero in mezzo alla corte perché due condomini in particolare piazzavano dei rottami solo al puro scopo di occupare posti, di riservarsi posti. E in una delle tante riunioni per promuovere... delle macchine rottamate tanto per tenere il posto. Esatto. Chi la roulotte, chi un ape caro in particolare. Ecco, la roulotte parcheggiata nel parcheggio condominiale molte volte diventa una sorta di alcova clandestina per usi impropri. Questo lo so per esperienza, perché mi ricordo che in un'occasione, tantissimi anni fa, la moglie rovesciava secchi di spazzatura sulla roulotte parcheggiata sotto perché il marito impropriamente la usava con la scusa di una manutenzione. Non è questo il caso, però comunque sia dava molto fastidio perché la roulotte è proprio fatiscente, cioè è un rottame, non è più una roulotte. Comunque piantammo quest'albero proprio vicino alla Pecar, rottame, arrugginito, pieno di spazzatura dentro. E a questa riunione il proprietario della Pecar era proprio indispettito di questa cosa, cioè che avessimo piantato l'albero, perché diceva che secondo lui c'è a chi piace l'albero e c'è a chi piace il rottame, quindi non era soggettiva la cosa, non era discutibile secondo il suo modo di pensare ovviamente. E da lì ad oggi di questi episodi ce ne sono a decine e decine e decine, cioè siamo una lotta continua contro persone che non hanno nessun senso civico, che hanno il pensiero che il comune non essendo suo non deve essere di nessuno. Grazie, sentiamo Nicola Giordano. Nicola Giordano, buongiorno. Buongiorno a lei. 42 anni, da 23 anni amministratore condominiale a Roma, quindi lei si trova in qualche maniera vicino i momenti della sua esperienza a quella che abbiamo fatto sentire da varie parti d'Italia? Sicuramente sì, ma non a livelli così, insomma, con mazze da baseball o quant'altro. Diciamo che a Roma la situazione è un po' più pacifica, ci sono più ripicche personali e quant'altro. Sì, non però, io devo dire, non si arriva mai alla violenza nelle riunioni che ho avuto d'esperienza io. Ci sono, diciamo, c'è un braccio di ferro sottile, ecco. Ecco, due vecchietti, perché uno di 70 anni e uno di 75 anni sono arrivati alla mani. Però era il motivo cosa, qual era? Il motivo? Era una finestra che il nonno di uno non aveva fatto aprire all'altro nonno delle cantine, quindi era un odio personale. Fai dei familiari che affondano le radici nella notte dei tempi, quindi. Bravissimo, cioè, quindi cose del genere. No, diciamo a Roma la vita condominiale è un po' più pacifica, sempre con ripicche personali, anche perché molte volte le persone comprano l'appartamento con questo atto notarile, però si scordano che comprano le parti condominiali con i vari regolamenti dei condomini, quindi poi si occupano scale e quant'altro con cose personali pensando di potersi allargare, no? Ma non esiste nel suo condominio, nella sua esperienza, l'annoso problema delle parti comuni, gli ex lavatoi, i locali condominiali che non si usano più? Ultimamente da quello dell'ultimo piano e quant'altro, allora chi dice di mettere le porte e non dare le chiavi a nessuno, chi invece lo vuole usare e quant'altro. Diciamo che sono liti normali, insomma, questo ormai dopo tanti anni fa parte, diciamo, della vita quotidiana, insomma, gli spazi condominiali. Ma le liti più grandi all'interno del condominio sono le antenne centralizzate che parlava prima e gli orari dei termosifoni. Sono due cose proprio fondamentali proprio queste. Ecco, come vengono affrontate? Mi sembra che per l'antenna centralizzata ancora non esiste un regolamento, una legge certa, non c'è un obbligo ancora di legge. Diciamo che la 4690 ha dato l'obbligatorietà dal 98, quindi i palazzine nuove hanno l'obbligo di già uscire con antenne centralizzate. E quelle vecchie? Quelle vecchie piano piano uno cerca di adeguarsi nei posti e e modi dove è possibile, perché ci sono anche situazioni dove magari ci sono terrazze all'ultimo piano oppure non vogliono rifare le scale, quindi queste calate per andare a alimentare i singoli apparecchi devono passare davanti le finestre o nel vano scala, quindi bisogna un po' studiare di volte. Sì, io lo so perché mi sta capitando, faccio parte dell'appartamento nel vano scala che deve essere in qualche maniera toccato per il passaggio, quindi dovrebbero togliere le cornici dai portoni. Questo pare che crei dei problemi, perché se le cornici si tolgono poi si rompono e via dicendo. È molto interessante comunque questa sorta di elemento domino, che ogni problema ne apre degli altri, poi ne apre degli altri. Perché uno non tocca le parti private, no? O tocca il proprio emisfero, quindi è tutto lecito. Dopo diventa quasi guerra aperta, insomma, come l'orario dei termosifoni. Poi magari in assemblea scelgono un orario e lo stesso che si è battuto perché bisogna risparmiare chiama 200 volte in studio, manda fax. Perché c'ha freddo. Bravissimo. Esattamente. Però lui in quel momento non risulta che è stato lui ad aumentare la... Quindi c'è un doppio giochismo, c'è un trasformismo. Falchi è tiratore sempre dell'amministratore in questi casi. Allora, fermiamoci un istante, signor Giordano. 800 24 00 24. Beh, io vi do una grande possibilità questa mattina. Consumate verbalmente le vostre vendette, sputate il rospo, dite cosa accade nelle vostre riunioni di condominio e, anche senza fare nomi e cognomi, ma descrivendo nei minimi particolari persone e circostanze, avete modo qui di dare ampia visibilità a quelle che sono le infamità dei vostri vicini di casa. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Io vorrei vedere morto il mio vicino di casa. È un rompiballe, ha una voce che sembra un energumeno. Oppure tagliare solo la lingua. Tagliare in due la lingua, come i serpenti. Se possibile, se puoi eliminare il cane davanti a casa mia che abbaia sempre e il neonato della mia vicina di casa. Grazie. Vorrei far fuori il mio vicino di casa. Ha un vocione che è un cavernicolo. Però l'unico problema è quando gli tagli la testa. Ho paura che questo vada avanti a parlare. 800 24 00 24, questo è quello che sentireste dire nelle riunioni di condominio se tutti dicessero quello che realmente pensano. Ma già molti lo dicono, già molti apparentemente approfittano di questa occasione per dirla in faccia ai vicini con i quali tutti i giorni si ossequano, si salutano, si cedono il passo nell'ascensore. In quel momento c'è un momento di massima franchezza, di caduta di tutte le reticenze, di tutti i rituali di buona educazione, di buon vicinato. Ci si dice in faccia tutto, poi ci si rincontra per le scale come se niente fosse. Sentiamo Mirella. Mirella, buongiorno. Buongiorno. Se Sparta piange, Atene non ride. Io vivo in un palazzo d'epoca a Napoli, protetto dalla soprintendenza, tra parentesi. Quindi molti problemi condominiali in più, perché per ogni cosa bisogna sentire la soprintendenza. No, va bene, insomma, lì ci sono delle possibilità diverse. Cioè se ne fregano tutti. Allora il mio problema qual è? Che approfittando di questi altissimi soffitti, moltissimi condomini si sono fatti soppalchi, hanno aperto porte abusivamente. Prego? Abusivamente. Senta, questo lo dice lei. No, la domanda, può dire sì, no. Non lo so, non... allora, ma già risposto. Io invoco sempre la riparametrazione dei millesimi, perché io mi trovo con pochissimi millesimi, insomma, in realtà a pagare in proporzione di più. Però, ma scusi, ma se il soppalco è abusivo non possono considerarlo come, a meno che non l'abbiano sanato, ma se è un palazzo storico, per il poco che ne so io, interventi sulle strutture sono rarissimi, difficilissimi, di solito sono proibiti perché indebolisce tutto il palazzo. Poi se casca un solaio non vi lamentate se aprite porte su muri maestri che non si possono aprire. Beh, cosa devo dirle? No, niente, deve solo ascoltare in silenzio. Praticamente è successo quasi tutto, insomma, anche con delle lesioni. Che poi se poi casca il palazzo non vi piangete addosso, ve lo siete voluto voi. Allora, ecco, vede, io mi piango addosso, io non faccio altro che protestare, probabilmente sono una della la pazza del condominio, come voi avete definito. Beh, esiste anche lo strumento della denuncia, mi rendo conto che poi finirà di vivere in quel palazzo, ma se tutti hanno soppalcato e quindi hanno indebolito o appesantito le strutture del palazzo, rischia anche la sua testa. Adesso non voglio sembrare uccello del malaugurio, ma cadono anche i palazzi. Probabilmente non è proprio a questo livello, però comunque io dovrei fare, io da sola, fare causa contro 48 condomini. uomini, pagare io la consulenza iniziale in un palazzo d'epoca gigantesco, quindi in pratica vuol dire andare a mare con tutti i panni. Ma lei ha soppalcato casa sua? No, assolutamente. Io ha aperto vani, finestre? Nulla, nulla, ho rispettato rigorosamente. Quindi lei è l'una alla mosca bianca, quel palazzo di abusivi? E diciamo siamo due, tre, quattro, forse, comunque non dico che sono abusivi, non, io sono andata alla soprintendenza, insomma non ho visto poi queste pratiche. Già una volta fu fatta una indagine in questi termini e quindi furono cambiati i millesimi, perché si vide che moltissimi avevano soppalcato. Questo nel lontano 83, adesso sono passati insomma quasi 30 anni, quindi... Vabbè, lei ci ha posto un problema che devo dire è di quasi impossibile risoluzione, ma quando va in riunione condominiale esce mai questo argomento? Sono quegli argomenti, se solo sempre, lei prova a dirlo? Cioè io costantemente lo chiedo, però i condomini decidono di non decidere. È perché hanno io la maggioranza. Si rivolga alla legge e quindi 48 cause con il pagamento anticipato di questa consulenza in un palazzo d'epoca grandissimo. Non ha speranza, non ha speranza. Capisco, non ha speranza. Mi dispiace doverlo dire, io non ho strumenti per poterla aiutare, però mi rendo conto che è, diciamo, una sintomatica voce la sua di quello che può accadere in un condominio, in un centro storico, in un palazzo d'epoca in cui il disprezzo delle regole diventa la regola per tutti. Andrea, buongiorno. Buongiorno. A lei che è amministratore di condominio? Sì, anch'io, ho sentito la prima chiamata. In che città? Cagliari. Ecco, lei ha qualcosa da dire su quello che dice la signora? Io non ho strumenti tecnici, ma un suo parere. Sì, un mio parere, in pratica diciamo che è una cosa abbastanza comune, diciamo che quando si svolgono delle ristrutturazioni all'interno di una stabile condominiale, diciamo che c'è sempre la possibilità che qualcuno aumenti la superficie radiante, cioè ovvero aumenti il numero dei radiatori all'interno della casa, creando danni all'impianto bestiale. Certo, crea uno scompenso, perché se l'impianto, la caldaia era stata studiata per un tot di calorie, è chiaro che poi lì non ci rientriamo. Poi quello dell'appartamento di sopra c'ha meno calore, si lamenta, come calore, mai non mi scalda piani. Sì, e quindi diciamo che il problema del capò che metteva lei, no, all'inizio della trasmissione, dice che l'amministratore deve andare a controllare, purtroppo risulta non in costrumento per poter verificare appunto eventuali abusi o ampliamenti. Quindi diciamo l'amministratore di condominio si trova a dover gestire con strumenti che poi i suoi poteri sono limitati, lui può soltanto gestire ma non ha autorità sugli altri, quella che molte volte è la regolarizzazione dell'abuso, siccome lo fanno tutti dicono beh, che vuoi che sia, ho sentito cose del genere in varie riunioni, cioè ma che vuole, poi si sana, poi lo fanno tutti, c'è una sorta di desiderio di seguire la via facile molte volte, ma l'amministratore poi è responsabile nei confronti diciamo generalmente nel responsabile degli abusi dei condomini, no, lui può soltanto dire la sua, mi sembra. Sì, esatto, può dire la sua e può anche se con difficoltà far verificare appunto gli impianti, solo che anche lì sono cose a parole facili ma diciamo praticamente un po' difficili, no? Sì, sì, se uno si impunta può anche non farti entrare in casa. Esatto, come un aspetto con un altro. Poi volevo aggiungere un'altra cosa che ho sentito in questa trasmissione, molto fantastica questa trasmissione, non l'avevo mai sentita e sono entusiasta. In pratica dei giovani che partecipano alle riunioni di condominio, che sono visti, diciamo, messi in soggezione, sono messi in minoranza dagli anziani, è una cosa assolutamente che corrisponde al vero. Sì, c'è una gestione molto gerontofila della riunione condominio. Di solito ci vengono dei ragazzi, perché ogni tanto qualcuno muore anche nei condomini, quindi vengono, certo, I figli di quelli che venivano prima, vengono trattati da novellini, come se non capissero quelle che sono le ragioni storiche di questa sorta di predominio degli anziani sugli altri. Sentiamo Vittorio, eccomi qua. Io ho sottoporre questo quesito e vorrei che qualche amministratore di condomino, perché col nostro non riesco a averne ragione. Io sono proprietario di un appartamento su due livelli con un giardino esterno. L'inquilino sovrastante, praticamente al terzo piano, mi proibisce proprio, mi minaccia perché io fumo nel mio giardino, mi proibisce di fumare a casa mia. L'amministratore, che è stato interpellato più volte in riunione o privatamente tra i due contendenti, io e l'inquilino, non trova uno strumento che possa dire che quella è casa mia, nel giardino di casa mia posso fumare. Io penso, non credo che esista strumento, lei fumi tranquillo, adesso dico come fare, io fumerei tranquillamente e vedere cosa succede. La prima volta che le tira un vaso in testa lo denuncia per lesioni, non lo so. Esatto, è già stato fatto, succede che arrivano secchi d'acqua dalla parte superiore. Chi sta sopra è stato avvantaggiato, io avevo dei vicini che mi tiravano la salsa di pomodoro sulle lenzuola che stendeva mia moglie nel lenzuolo interno. Mi dica lei come posso risolvere questo problema. Non lo so, si doti anche lei di una mazza da baseball, non so cosa dirle, non esiste una possibilità razionale per combattere l'irrazionalità, questo accade. Nei condomini accadono delle cose che non esiste uno strumento per poterle regolare. Quando ci si accanisce un vicino contro, sono delle piccole lotte intestine, talmente impalpabili ma talmente dolorose, che non esiste mai uno strumento, non c'è razionalità. Io normalmente, quando ho trattato questi argomenti negli anni in cui faccio questo mestiere, la gente esasperata cambia casa, se ne va. Alla fine vince quello che ha più costanza nell'essere infingardo, vigliacco e vessatorio sul proprio vicino. È chiaro che lei ha tutto il diritto di fumare nel suo giardino, è chiaro che l'altro non può tirarle le secchiate d'acqua in testa. E le dice, come hanno detto prima alla signora di Napoli, vai dall'avvocato, denunciami, tanto sanno questa cosa non andrà mai in fondo. Si rassegna, cambi casa. Simonetta. Buongiorno, dunque io volevo segnalare una cosa che è molto sgradevole, che è successa a me e ad altri padroni di casa. Ci siamo trovati con un amministratore che ha sottratto per 2 anni, senza che noi ce ne accorgessimo, perché lo faceva con abilità, tutti i soldi delle spese condominiali, delle spese straordinarie, eccetera. Quindi ci troviamo adesso per ripagare tutto. Ma cosa ha fatto? Con questi soldi cosa ha fatto? La spesi al gioco? Ci è andato a donne? Esatto. Ah, ci è andato a donne. Cioè nel senso che li ha messi sul suo conto personale. Ma ne avete prove voi di questa sottrazione? Sì, sì, adesso ci sono. Ci sono voluti 2 anni per scoprire questa cosa. L'avete denunciato, penso. Sì, però dunque questa persona ormai, siccome questo scherzetto l'ha fatto già in altri, non so se 5, 6, 7... Beh, si chiama truffatore, la legge penso che abbia qualche strumento allora, per perseguirlo. Come ho scoperto che è il 7° amministratore a Milano che fa questo giochetto, volevo avvertire, nel senso che... Di stare attenti agli amministratori. Esatto, esatto. E comunque c'è un sistema che ci ha indicato il nuovo amministratore, mi sembra molto giusto. Che le sta più simpatico? No, assolutamente, non l'ho mai visto, l'ho solo parlato per telefono. Poi ha detto di far aprire l'account in modo che tramite computer i condomini possano controllare il conto. Esatto, in modo che si veda che quei soldi che noi versiamo non vanno sul conto personale. Sì, si può fare diciamo, un'operazione in banca in cui potete controllare ma non potete fare operazioni su quel conto, mi sembra una cosa giusta, una trasparenza interessante, mi sembra una buona idea questa qua che l'ho suggerito. Il conto condominiale che amministra l'amministratore possa essere controllato, oddio se uno ha tempo, io non ho nemmeno tempo di controllare il mio, però se ha tempo di controllare il conto del condominio e fare il conto ai 10 centesimi di ogni spesa condominiale, è giusto che lo faccia. 800 24 00 24, a tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Amatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i 7 nani, mi si accusa del furto di uno dei 7 nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. E beh, io lo confesso, votai contro l'installamento in giardino di Biancaneve e i 7 nani in quella ormai storica riunione. Votai contro poiché gli 8 milioni e 100.000 lire preventivati di spesa dal qui presente amministratore per Biancaneve e i 7 nani mi sembravano un furto, una ladroneria, una truffa. Signori, stimati amici meravigliosi, non trovo che siano esagerati i soldi spesi per mettere Biancaneve e i 7 nani nell'interno del proprio condominio. Amerei vedere i 7 nani e Biancaneve nell'androne di casa mia, ne sarei felice. sarebbe una bellissima idea, quindi non capisco in questo caso l'opposizione del mostro Benigni, nel film Il Mostro appunto, a questa saggia decisione, penso deliberata, con il consenso della maggioranza dei condomini. Mi scrive Marco su Facebook, dice che nulla quello che noi stiamo dicendo, nel suo vecchio condominio la vicina del piano di sopra gettò dell'acido sulla macchina della moglie, cose che accadono terrificanti. Sentiamo Susanna. Susanna. Sì. Cosa succede nel suo condominio? Ah, qui succede che a volte aver ragione non paga, nel senso che... Nella vita sempre succede così, quando anche avvocati ti dicono hai ragione, facciamo la causa... Gli avvocati lo dicono sempre, perché più dura la causa più loro pigliano soldi, è chiaro. Sì, però qui proprio c'era effettivamente ragione, nel senso che io avevo comprato una casa... È un appartamento a due unità abitative, la persona che è venuta a abitare sotto non se ne voleva sapere proprio per niente di concorrere alle spese per rifare il tetto e mi trovavo io con i secchi dell'acqua per raccogliere e lui sotto che proprio altamente non gli... Ma eravate un condominio? Eravate? Eravamo una casa a due piani. Allora non è un condominio. Non c'era condominio, perché entrambi i proprietari, però lui adduceva che non era proprietario del tetto. Sono cavoli, come suol dirsi, signora. So bene il problema perché mi è capitate cose simili nella mia vita e non so che dirle. L'ideale sarebbe vivere in una villetta in mezzo a un bosco circondata da dei cavalli di Frisia. Uno non avrebbe questi problemi, ma ci tocca e ci piace molte volte vivere insieme ai nostri simili e i problemi sono questi. È chiaro, lui non ha l'acqua in casa, dice il tetto aggiustatelo te, anche se a pieno diritto dovrebbe chiederle lei di concorrere alle spese. Esatto, perché il tetto, io ho fatto causa e lui ha preso un avvocato perché pensava, certo, di aver ragione, in quanto essendo al primo piano il tetto... Cioè quello avete speso in avvocati, ci rifacevate il tetto almeno due volte? No, il fatto è questo, che è stata, essendo che lui non si è mai presentato, è stato sempre in contumacia, quindi la causa è andata avanti spedita, anche perché lui non era rappresentato da nessuno, in quanto effettivamente aveva torto. E adesso diciamo è ancora latitante il vicino? Io ho rifatto il tetto a tutte le mie spese, ho vinto la causa, ho quindi istanza che mi dà diritto di chiedere a lui il risarcimento. Lei potrebbe bypassare l'acqua piovana sul tetto con un sistema idraulico. Infatti volevo fare un buco col trapano nella mattina del bagno e farla andare giù. Certo. Il fatto è che lui a gennaio dell'anno scorso è partito, è andato a abitare a Londra e la casa è ancora sua, però qui non c'è, non esiste, la casa è abbandonata e quindi io non so da che parte prendergli queste niente, non li prenderà mai, signora. Può solo fare delle vendette vigliacche contro la legge danneggiando il suo patrimonio immobiliare, solo questo, ma le dà soddisfazione, ma la farà incorrere nei rigori della legge. Dunque, ci ha chiamato Stefano Tabarrini, che è presidente Associazione Nazionale Condomini Italiani, amministratore di condominio immobiliare italiani. Ci ha chiamato che vuole fare delle precisazioni. Dica. Buongiorno a lei. Senta, no, le precisazioni erano relative a questa. È normale che nel condominio la litigiosità è arrivata ad altissimi livelli. Quello che è il mio parere, ma anche dell'associazione che rappresento, chiaramente è duplice. Un po' ce la dobbiamo prendere col codice civile in Italia, che è nato nel 1942 e che quindi ormai non riesce assolutamente a contenere. Ecco, io ho avuto questa impressione tutte le volte, che non c'è mai una certezza normativa, c'è sempre delle interpretazioni. Io vedo che anche nel mio condominio poi devono chiedere sempre un parere a voi, che siete diciamo il cappello sul cappello di tutti gli amministratori di condominio, perché alla fine c'è sempre un'ambiguità, vero? Assolutamente, ma più di un'ambiguità, anche perché ovviamente la normativa non è mai chiara e cristallina, ma lascia sempre spazio all'interpretazione e ovviamente su questo la giurisprudenza, e gli avvocati non me ne vorranno, non dico che si biforca, ma prende ovviamente 50 strade completamente diverse. Chi ha tanto tempo a disposizione, quindi i pensionati, si attaccano e danno una ragione alla loro vita nel creare casini agli altri condomini. Assolutamente sì, proprio perché ormai la normativa è obsoleta, ci sarebbe bisogno, e noi ovviamente come associazione ormai credo che siano più di 10 anni che lo chiediamo al legislatore e quindi ai vari governi che si sono nel frattempo succeduti, ma tutte le richieste di modifica del codice stanno chiusi sempre in quel famoso famigerato cassetto che nessuno... Quindi la ringrazio, Tabarrini, lei ci ha dato in fondo la chiave per decifrare questa sorta di, non la prendiamo come scherzo, come fenomeno sociale, ma in realtà accadono cose perché manca la legge. Sentiamo Serena. Serena, in conclusione. In conclusione, io alla riunione di condominio mi sono fidanzata ho conosciuto il vicino con cui poi mi sono fidanzata. Riunioni in cui siamo sempre andati d'accordo. Quindi vi vedevate una volta ogni 2 mesi? No, ci siamo conosciuti lì perché siamo fatto più spesso. Ah, quindi lei l'ha fatto scendere a bere qualcosa dopo la riunione di condominio? No, lei che mi ha chiesto di uscire dopo la riunione di condominio. Ah, ci ha provato. Eravamo tutti qua i figli di gente che già si conosceva. E le riunioni venivano fatte giorno, una volta in un appartamento, una volta in un altro, dove chi io ospitava offriva qualcosa da mangiare o da bere, si faceva. E adesso avete unito i vostri millesimi, quindi avete due voti quando votate. No, questo è successo qualche anno fa e adesso siamo buoni amici e basta. Ah, vi siete lasciati? Sì. Non vi frequentate più carnalmente. Va bene, grazie. No. Serena. Vabbè, può essere sempre che verranno altri vicini e verranno altre storie, glielo auguro. Ringrazio Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini e tutti gli amministratori di condominio che volontariamente questa mattina hanno telefonato. Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.